Giorni fa avevo ricordato l'esperimento di Calhoun sul comportamento dei topi in condizioni di sovraffollamento. Aggressioni, atti gratuiti di sadismo, malattie, instabilità sociale e altri disastri. Carla Rosco mi ha gentilmente informato che nell'ultimo libro di Franz De Waal, Naturalmente buoni, così si intitola e così non mi piace proprio del tutto, si rende conto in questo libro di altri esperimenti che hanno dato un seguito a quello di Calhoun. In caso di sovraffollamento, allora, fra i primati, oltre all'aumento di aggressività, si nota anche un significativo aumento del grooming. Il grooming corrisponderebbe a quelle cure corporali che, al di là del significato strettamente igienico, hanno finito con l'assumere una funzione di riequilibrio sociale, mantenendo, diciamo, coesi i membri di un gruppo. Spidocchiare, strappare peli superflui, liberare delle minime sporcizioli che sono andate ad insediarsi laddove o non le si vede o non ci si arriva. Fra uccelli, fra mammiferi, soprattutto fra primati e fra esseri umani, è un'attività altamente gratificante sia per chi la fa che per chi la riceve. Fra pesci ricordo il caso dell'Abroides dimidiatus, di cui sono andato a verificare, ne ho parlato esattamente 10 anni or sono da questi microfoni, il Abroides dimidiatus che in pratica diciamo che lo fa di mestiere, perché libera dai parassiti e per ottenere i suoi servigi, a quanto sembra, in mare si fa la fila. Sono stati fatti anche esperimenti con le manguste nane e anche lì l'aggressività aumenta in ragione del sovraffollamento, ma con un correlativo aumento dei comportamenti affiliativi. Ciò ha portato Franz De Waal, che è un etologo molto bravo e molto noto per i suoi studi sui bonobo, ha portato De Waal a correggere le vecchie tesi di Calhoun. È vero che l'affollamento mette sotto stress sia gli individui che il loro sistema sociale, ma è anche vero che molti animali, come i primati, non reprimono affatto l'attenzione, ma mettono in atto, dice De Waal, contromisure affinché la struttura della loro società non ceda. Dicevo che Naturalmente buoni come titolo non mi piace affatto. Perché? Perché già faccio fatica a distinguere il naturale dall'artificiale, figuriamoci poi se mi permetto di applicarci sopra a questo che sia di indistinto che mi rimane categorie di ordine etico e categorie di ordine etico ricavate indubbiamente dall'esperienza umana. Come dicevo l'altro giorno, con le analogie occorre andarci con i piedi di piombo. Se passo dai primati e dalle manguste nane agli esseri umani e se prendo alla lettera i risultati degli etologi, dovrei convenire sul fatto che qui, bene o male, stiamo facendo il possibile perché la struttura della nostra società regga. Il che, visto l'orrore di società che viviamo, diciamo che mi toglie anche l'ultima speranza.